Con queste poche righe scritte dai cubicoli delle Vallette vogliamo prima di tutto ringraziare le centinaia di persone che ci hanno scritto lettere, cartoline e telegrammi che ci arrivano tutti i giorni. Mai, nemmeno un solo istante ci siamo sentiti soli e questo è anche il motivo che ci ha emozionato in questi mesi chiusi in questo posto infame. Possono chiudere fisicamente le persone, ma mai potranno fermare la solidarietà espressa con cibo, foto, cartoline, saluti fuori dal carcere, cenere per raccolta fondi, cuore e testa delle persone. Non ci sentiamo coraggiosi o eroi. Siamo due persone che, come da quel 21 giugno, non hanno mai cambiato idea sulla scelta fatta. Le voci che ci sono arrivate da fuori su chi ha violato e continua a violare le misure della Procura di Torino non fanno altro che darci ragione e farci ridere, immaginando PM e loro galoppini alla disperata ricerca di chi difende con i denti la propria libertà. Il nostro saluto particolare va a Nicoletta, a Fulvio, a Eddie, a Guido, a Lia, a Daniele, a Gabra, a Irene e a tutti quelli che ci hanno fatto ridere e a quelli che ci faranno ridere ancora. Una risata di soddisfazione e complicità li seppellirà sotto la loro inutile montagna di cartaccia. Giuliano e Luca, 29 agosto 2016.